l'idea è nata perché noi riteniamo che oggi ci sia un'emergenza non solo sociale e legale, ma ci sia anche un'emergenza di carattere culturale, quindi cerchiamo di partire nel nostro piccolo nel fare un'operazione di carattere culturale. Abbiamo messo insieme un gruppo di amici, di professionisti, oltre l'amico Giovanni De Stefano, che in collegamento ci sono dei giornalisti minacciati per altri motivi, da altri clan e da altri, diciamo, soggetti che fanno della illegalità il loro mestiere. Abbiamo messo insieme anche degli amici avvocati, altri cittadini, perché riteniamo che, mettendo in piedi un'associazione che ha anche un nome simbolico, come tu hai poco fa riportato, Magna Grecia, si batte, si impegna per diffondere e al tempo stesso difendere il concetto della legalità sul territorio. Assolutamente. Sembra, diciamo, una battaglia banale, semplice, ma ti assicuro che nel nostro territorio, come in moltissimi altri territori del Sud Italia che tu conosci benissimo perché li segui con le tue inchieste puntualmente, non è facile partire anche dalle cose più semplici come il concetto di legalità. Assolutamente. Le cose che cercheremo di fare, infatti, sarà quella di aprirci al mondo culturale, alle scuole, alle università, per diffondere anche tra i più piccoli, tra le nuove generazioni, i concetti della legalità che oggi sono fortemente a rischio.